ma quello è una fatta qua, dopo due giorni ti vede, no? Ma ti vede in cam, no? Ti vede. Cerca di fare la proposta, lì hai il contatto privato, ci contatti, ma sai sei carina, boom, va, dove sei, boom, va, lì si inizia, poi domani, ma ti cagai di seno, come sei, boom, va, e poi vabbè, fai al terzo giorno. Ti vuol dire una cosa, dimmi, ti amo. Ma proprio da suicidio. Penso che sia una persona che non è normale. Penso che sia una persona che non sia normale, o falsa, perché non puoi dire una cosa del genere così, ma si usa in un modo superficiale, adesso non si dice perché lo senti, si dice superficialmente, magari ti vorrei morchiare una ragazza e gli dici una cosa del genere, a una donna sempre fa piacere se ti si dice una cosa del genere, però deve essere sincera. Io sono più delicato, insomma. Sì, ma sono d'accordo con te, già ci mancherebbe, ma sono modi di dire le cose. Capisco che magari una persona ti senti da anni, ci può anche scappare, no? Se per domani ti sta a cuore, ma io non sono mai permesso. C'è dentro la bocca mia, però aspetta. Però aspetta, siccome ci sono dei siti, no? Che quindi in queste frasi d'amore ti scritto magari deve essere una frase e poi alla fine ti amo. Di quella qualcuno l'ho mandata, ma non detta a me, non detta a bocca mia. Però si può anche fare, si può anche mandare. Ma poi quel giorno non so, boh, ma cui, mai io blu gutto. Io sono più delicato dicendo queste cose. Da tu sei un buon partito, per quello sei un bravo ragazzo, è normale che una ragazza ti dica ti amo. Non mi a dirli, ti trombo! Guarda, brava tu, da fare regolata, ci sono donne in macchina con Grode. Antonio Grode, ti posso dire questo, a me capita solo, persone già impegnate, ecco. Conoscenza, non è che mica ci fai sa che cosa. Guarda, quello è single, qualcuno c'è, ma non mi butto più di tanto, non mi interessa, tanto è tutta gente di fuori, gente di qua, guarda, ne conosco un poco, una qua, non è di qua, di una zona comunque sia, tramite un amico sempre in questa chat di Sky, e basta, ho conosciuta, niente di che, non è una fottinuta. Ma lì stavo scherzando, non sai che io sono sempre a quella maniera. Chiappa, no, vabbè, a parte gli scherzi, io già sono sempre cordiale, non mi dicevo quasi mai con le donne, con gli uomini sì, ma con le donne mai. È come dei uomini. Però io che sono con donne, con uomini, con uomini. Non ho problemi. Se mi rompono, io non rompo. Se rompono, allora rompo. Attacco. Comunque, Antonio Grode. Aspetta un attimo, questo te l'ha posto qua, ok. Antonio Grode, ho detto prima, ho visto quel piccolo articolo sulla Nuova Sardegna. Allora, cosa mi dici? Spicco, no, cosa mi dici tu, scusa, cosa aspetti a iscriverti? Ma vedi che volevo andare, dove sono? Io non ho detto, ma però c'è perché devo scappare. Sono andato una commissione, non ho avuto tempo. Poi c'è il tuo nome e basta, è più l'email. Ma Roger, te l'ho detto, come dice l'articolo siamo in fase di registrazione, quindi di espletamento burocratico della cosa e poi appena finiamo siamo pronti, comunque ve lo dirò appena è tutto fatto. Ok, va bene, allora, poi si vedrà cosa fare. Ho scelto, ma tanto questo baracchino ma chi fa qua? Sto dove sarà questo baracchino, poi ho letto il pezzo dell'articolo di sopra, un piccolo. Per far sì che c'è un baracchino dentro l'armadio, uno vuole andare fuori per riprendere a modulare. Poi quando ho visto il tuo nome, ho capito tutto l'andato. La cosa è questa, era esclusivamente un articolo per far sì che chi vuole riprendere un modulare sappia che comunque la 27 si è riaccesa, che c'è gente. E poi ha un, ti ripeto, è un coltello a doppia lama, capito? Perché sai quanti rompipalle entrano lo stesso, perché entrano gli appassionati, ma entrano anche le persone che non vogliono rompere le scatole, infatti da un po' di tempo a questa parte si sentono già portanti e rotture di scatole varie. No, no, vabbè, quelle sono sempre state, tanto non ti meravigliare, ci sono sempre state. Io sono passato più o meno, guarda, vent'anni, no, ma anche io, quasi. Perciò ci sono sempre state importanti, anzi, prima era peggio, quello lì è peggio. Però vabbè, vediamo un po'. Qualcosa riusciremo a fare, se siamo capaci e ci mettiamo di... ci mettiamo in testa, ecco, beh, queste persone non esisteranno più, però ci hanno messo d'accordo tutti, non è che uno dice io esco, tu non esce, ci mettono d'accordo tutti e poi qualcuno uscirà, ci alterniamo, no? Vabbè signori, io vi saluto, faccio voglio dire che ci sentiamo tutto con calma, ciao. Me lo sono riproposto, ce lo siamo riproposti. Ciao Giuseppe. E lo faremo abbinato al mercatino dell'antiquariato che c'è in Piazza Azzurra. Vabbè, non c'è problema, dai, vediamo un po'. Sono cose belle, dai, vediamo. Però, c'è un però. Siccome adesso da un po' di tempo a questa parte ci sono un po' di malintesi, ecco. Qualche guerra, dobbiamo andare tutti d'accordo, no? Cavarci io più o un altro, perché alla fine poi non cosa ne ricavi? Niente, dobbiamo andare tutti d'accordo. E purtroppo la baracca ne usi, anche io ho avuto delle guerre, bisticci e orgoglia, però ci mettiamo tutti, anche i che già ne ha bisticciato con Claudio, no? Facciamo un esempio, ma tu ne ha bisticciato con un Pacchetto. Ci mettiamo tutti d'accordo e andiamo tutti d'accordo, facciamo il nostro canale, se no io non fai niente, perché due stanno in un canale e dieci in un altro canale, è brutto così, ci stiamo tutti assieme, ci organizziamo e tutto, se no non è bello, secondo me non lo conosco, guardate voi. Ah sì, aspetta un attimino. Allora, io non sono d'accordo su quello che hai detto. Due persone possono anche non essere simpatiche, non provare un'empatia o comunque essere empatiche nei confronti di una delle altre. Non per questo, ti ripeto, non devono condividere una situazione e allo stesso tempo una frequenza. Anche in una stessa famiglia ci sono dei fratelli che non si possono sopportare l'uno con l'altro e non è detto che per forza di cose non debbano stare nelle quattro mura di casa. Allora basta evitare con una certa cordialità e va bene lo stesso, però l'importante è associarsi a quello che dico io e comunque condividere la frequenza. Poi non è detto che due persone devono essere costrette, gli devi togliere la libertà di non andare d'accordo l'una con l'altra, perché è possibile che abbiano già fatto quegli sforzi che tu stai dicendo e non siano riusciti comunque ad andare a buon fine. No, vabbè, su quello, certo siamo quattro gatti, Mianzo. Cosa? Boh, sono quattro gatti. Tanto vale, tu fai questa cosa qua, poi fai che cosa, per niente. Beh, ci riuniamo tutti e vediamo il tutto. Pure non lo so. Si vedrà, dai, si vedrà. Quello che ne esce ci prendiamo, non c'è problema. Avanti, Gianni, sei da dire la tua, prego. Un attimino mi assento 5 minuti, la riprendo già. Allora io la mia l'ho già detta stasera e non la voglio ripetere sinceramente. E io dico, potrei essere anche d'accordo, però ci sono delle persone a me che non mi fanno, che non ritengo opportuno rifrequentare, anche perché ho dato delle possibilità più volte e poi si sono ricascate nell'errore, quindi raro manum est, perseverare se diaboli, come diceva quello. Sono completamente d'accordo con te. Ma scusate un attimino, io sono perfettamente d'accordo con quello che avete detto, ma comunque mi dovete dare atto che due persone possono essere, non provare una simpatia l'uno per l'altro, non per questo non condividere una cosa, perché al pari che se uno di voi due o uno, adesso non entriamo in merito alla cosa, comunque non condividesse la frequenza esclusivamente perché c'è l'altro. Allo stesso tempo si può fare con un'associazione, si può evitare sapientemente senza bisogno di condividere le cose insieme, condividendole come state condividendo la frequenza, punto. Ma un'associazione deve essere una cosa piacevole, rilassante. Io non vado in un ambiente dove ci sono persone che mi irritano addirittura. Aspetto, io non sono davvero all'oscuro di tutto, quindi non entro in merito e rispetto comunque le decisioni di tutti, nel senso che non posso obbligare una persona a far sì che un'altra le sia simpatica. Quindi. Ti do pienamente ragione e qualsiasi decisione che voglia prendere. Detto questo, sappiatelo che io per la 27, la 27 ce l'ho nel cuore, tant'è vero che ho fatto di tutto perché riprendesse. Se noi siamo qua è perché io mi sono impegnato in prima persona a farla riprendere. L'ho detto a Natalino, l'ho detto a quello, l'ho detto all'altro, ai vecchi. E poi dei vecchi sono nati nuovi, sono risaliti vecchi. Siamo 7-8 anni già che stiamo andando. Assolutamente sì, ma io di questo sono testimone, il fatto che in tempi non sospetti sia tu che Bombolo sicuramente mantenevate accesa la frequenza, questo sono il primo a dire. Sì, abbiamo, tranne qualche volta che magari si usciva e cose, però io per la frequenza stravedo, mi è sempre piaciuta, sono dall'età di 14 anni che ho avuto il primo baracchino, ne ho la bellezza di 51, ne devo compiere 52, quindi immaginate quanti anni ci sono in frequenza. Proprio per quello ti dico, ci sono delle cose che si possono anche comunque mettere anche da parte, conoscendo come ragazzo, però non so, io sono delle persone che proprio realmente nella vita di tutti i giorni non posso sopportare e di conseguenza le evito. Quindi se posso, se puoi e pensi che fare parte di questa associazione non ti crei problemi, anche se ci sia questa persona, bene, o queste persone, adesso ti ripeto, non entro in merito alla cosa perché non ne conosco i risultati, quindi non mi permetto. Nel caso contrario, comunque rispetto alla tua decisione, mi dispiace che una persona di esperienza ci vuole sempre. Vediamo, magari cambia anche idea, perché se li vedo l'unico magari che non è iscritto e cosa, magari cambia anche idea, non mi interessa, poi cerco di vederla a modo mio, non lo so, però devo vedere, la devo appurare, appunto, vi faccio iniziare e da parte mia vi do un in bocca al lupo, che la cosa vada avanti, si faccia nel migliore dei modi, che porti dei frutti, ecco. Certo, questo è un po' al lupo, crepi il lupo e sicuramente, ti ripeto, se ci saranno faremo qualcosa di buono, faremo insieme, assolutamente. Bombolo, riprenditela un attimino di fianco che sto salendo al QTH. Tanto no, la mia idea è quella, no, non me la cambierà nessuno. Vediamo. Musu, diceva quello. Quindi Musu. Soprattutto io ho un caratteraccio che non. Cioè, lo sai, hai capito. Vabbè, ognuno c'è il suo anzu, ognuno c'è il suo di carattere. Io penso che anche la formica si giri quando la pesta. Ragazza, comunque è un discorso che non mi va a prenderlo neanche, perché io penso che devo andare nella strada mia e basta. Loro no, non, cioè molti non riescono a capirlo, però ognuno deve capire per sé il senso. Beh, non possono arrivarci, se non sanno cosa, come sono le cose, non ci possono arrivare mai. No, ma si fa in fretta a parlare, però se non si sa come sono le cose, no, cioè, fa vedere, però no, non si rendono conto di ciò che sia. Non mi ha detto cosa qua perché sono alzato le fucce, mi sa che io vado, vi saluto e faccio correttità, ci sentiamo domani. Tanto, ciao Grove, ciao tutti gli altri amici di sentamento, non voglio dimenticare nessuno, buonanotte e quello ti permette. Ma buonanotte già dai, ci sentiamo, buonanotte a tutti, ciao.